ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ma come? Ancora quella rompicoglioni carrierista? Non c'è proprio nessun altro? Così parla un magistrato e parla di un altro suo collega. L'onere della toga a volte può essere anche questo, se sei bravo e se sei in vista, finire nel bersaglio di tensioni e veti contrapposti e farsi il sangue amaro come una qualsiasi altra persona comune. Sotto quella toga che i magistrati indossano ci sono vite, ci sono storie, ci sono famiglie, molto spesso costrette a portare pure loro il peso della toga, quando ad esempio un'inchiesta divampa all'improvviso e la giornata ruota solo intorno ai suoi sviluppi, o quando i boss ti dichiarano guerra e non solo tu, ma anche tua moglie e i tuoi figli sono costretti a vivere blindati, scortati e minacciati. Sotto quella toga che rappresenta lo Stato nell'aula di un tribunale ci sono uomini e donne, come tutti noi, che non fanno fatica ad ammettere la nausea provata ad esempio davanti al sequestro e alla morte di un bimbo o davanti alla scoperta del cuore mafioso della propria terra che si credeva invece sana. Ci sono uomini e donne sotto quelle toghe e c'è un libro che ora ce li fa incontrare a tu per tu, L'onere della toga di Lionello Mancini, collega del Sole 24 Ore, un libro che è un tentativo di restituire uno spessore agli uomini e alle donne che operano nelle procure, come scrive il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone nella prefazione. Il volto umano della magistratura, uno dei poteri dello Stato, qui raccontato con coraggio anche in certe piccolezze o tensioni, nella storia ad esempio per certi versi incredibili ed esemplare di Cuno Tarfusser, già procuratore capo di Bolzano, ora vicepresidente della Corte Penale dell'Aia, dove si occupa soprattutto dei massacri dell'Africa. Noi siamo una corte giovane, siamo nel nostro 11° anno di esistenza e quindi tutti questi meccanismi, anche meccanismi di cooperazione con gli stati, meccanismi investigativi, meccanismi processuali, sono ovviamente in fase di affinazione. Qualche anno fa ne avevamo meno, oggi ne avevamo un po' di più, ma sono sempre sufficienti questi poteri. Abbiamo sempre questa confrontazione, no? Corte-Stati che rende difficile il lavoro, ma insisto nel dire che è meglio che la Corte esista piuttosto che non esista. Prima di arrivare in Olanda è stato il procuratore capo, tra l'altro, della Procura di Bolzano. È riuscito in quello che è stato considerato da molti quasi un miracolo, quello di riuscire a trasformare, diciamo, una procura in un ufficio che funziona sostanzialmente. Un'azienda. Dico anche un po' provocatoriamente, ma mi è stato contestato amaramente, potrei dire. Sono stato ho fatto un lavoro talmente buono e apprezzato che sono stato mandato in esilio, potrei dire io. E questo amaramente. Promoveatur ut amoveatur. Vista dall'Olanda, la situazione giudiziaria italiana, del meccanismo della giustizia italiana, com'è? Cioè, intanto lo vedo abbastanza da lontano, no? Ormai mi sono fatto abbastanza il sangue amaro perché io ovviamente mi rendo perfettamente conto di essere un privilegiato e di fare adesso un lavoro assolutamente straordinario e stratosferico, ok? Quindi non è una recriminazione, però devo dire che se al momento giusto, prima di venire all'AIA, qualcuno mi avesse chiesto in modo serio di fare qualcosa per il mio paese, per la giustizia del mio paese, io avrei scelto certamente quella che sarebbe stata la strada molto molto più arda rispetto a quello di venire all'AIA. Ha un po', diciamo, il rammarico di non avere potuto dare di più rispetto a quello che io dico che avrei potuto e voluto dare piuttosto. Non so se poi ci sei riuscito, ma che avevo fortemente voluto, perché ritengo di sapere, di conoscere, di sapere insieme ad altre persone quali sono i meccanismi su cui intervenire per fare migliorare anche forse sensibilmente la giustizia. In un certo senso anche la sua è una storia di un cervello scappato, fuggito dall'Italia. Io non sono fuggito, io sono stato fuggito. Perché è diverso. Stato allontanato, nessuno allora. Nessuno mi ha chiesto di rimanere, ma mi hanno offerto di andare. Procuratore, ma perché secondo lei la sua capacità di trasformare la gestione di una procura in un'azienda che funziona e quindi di dare una soluzione ad un problema molto pratico ma tanto annoso da essere sostanziale per la giustizia italiana, perché e a chi tutto questo ha dato fastidio secondo lei? Da quando sono qua mi pongo una domanda: in realtà, ma c'è qualcuno che vuole che la giustizia funzioni? Io ho questo dubbio ormai, perché finché la giustizia fa la funzione onorevolissima e utilissima dello spazzino e quindi incide nelle parti in cui non c'è un dissenso, c'è il consenso, va tutto bene. Il problema è che quando si alza un po' il tiro iniziano i tiri incrociati, i fuochi incrociati. Io ho la forte sospetto che una giustizia funzionante oltre un certo livello non la si vuole neanche. Vedo solo che qualsiasi intervento, che sono sempre settoriali, poco organici, ma raffazzonati, non c'è nessuna organicità in nessun tipo di modifica. Cioè, secondo lei, procuratore, in qualche modo nel tentativo di tenere insieme equilibri, interessi, pressioni di settori diversi del mondo che ruota intorno alla giustizia, si perde un po' l'obiettivo ultimo di introdurre dei cambiamenti che facciano funzionare quella giustizia? Cioè, tutti gli attori del sistema giustizia, nessuno si vuole pestare i piedi, evidentemente, e quindi ci si barcamena, si cerca di navigare in superficie, dando un colpetto di qua, un colpetto di là, ma senza che questo abbia un'incidenza positiva sul cittadino. È il cittadino che ha bisogno della giustizia, ma il tutto non viene visto dalla parte del cittadino, viene visto da parte un po' degli avvocati, un po' dei magistrati, un po' della politica. Cioè, sono abbastanza scoraggiato, devo dire. Il suo esperimento, che ha portato dei risultati clamorosi a Bolzano, dove lei è riuscito non solo a far funzionare molto meglio la procura, adesso poi racconteremo anche come, facendo saltare tanta burocrazia inutile, diciamo facendola funzionare nella quotidianità, ma è riuscito anche nell'impresa molto, diciamo, davvero complicata di ottenere anche dei fondi per la giustizia dall'Europa. Perché tutto questo, che appunto si traduceva in soluzioni concrete nel meccanismo giudiziario e che a un certo punto era stato anche preso in esame per come modello, diciamo, di tipo nazionale nei primi colloqui che lei aveva avuto con l'allora guardasigilli Clemente Mastella e poi anche con Castelli, perché tutto questo ha un certo punto è diventato anche un motivo così di polemica e no, di... Ma io direi semplicemente non è stato valorizzato. Capisco che questo può essere quello che ho fatto io, può essere non molto gradito ad alcune categorie, parlo alla mia categoria in particolare. Devo anche dire che quello che io ho fatto a Bolzano, poi c'è stato un seguito anche con Mastella, perché Mastella è il ministro che ha capito il valore e il potenziale, no, di questo esempio, di questo modello, certo. Il problema è nato poi quando ci sono le elezioni, arriva il governo successivo col ministro Alfano, il quale, pur interessato, però poi al ministero non c'è stata più una spinta propulsiva rispetto a questo. Insomma, non era sostenuto, e quando le cose non vengono sostenute, certo, diciamo, finiscono su quei binari morti della burocrazia e della politica, esatto, italiana. Ecco, lei come è riuscito a, diciamo, sbrogliare la matassa della burocrazia, che è quella che d'altra parte rende così oberati anche fisicamente di carte e di fascicoli gli uffici giudiziari italiani? Quando sono diventato procuratore della Repubblica, ho cercato di pensare cosa deve fare un procuratore della Repubblica, perché tutti si riempiono la bocca di capacità manageriali, ma poi dare un contenuto a questa parola forse sarebbe anche il caso di farlo, no? Sono arrivato a una banalissima conclusione, e cioè che quando tu ti viene data la responsabilità della funzione di un'organizzazione, perché un ufficio giudiziario non è altro che un'organizzazione complessa, cioè non dobbiamo sempre parlare in termini la giustizia è qualcosa di sacrale, è un'organizzazione, scendendo un po' dal piedistallo, è un'organizzazione. Se io sono a capo dell'organizzazione, il mio dovere è quello di farla funzionare, e quindi devo fare un ulteriore passo giù dal piedistallo e incominciare a confrontarmi con chi mi può dare una mano su come organizzare. E se ho un merito, questo è il merito di essere sceso dal mio piedistallo di procuratore della Repubblica, di essermi confrontato con altre persone, perché noi abbiamo questa presunzione di essere in cima a questa piramide, noi non ci confrontiamo con nessuno perché tanto abbiamo sempre ragione. Secondo lei molti suoi colleghi, sia procuratori capi ma anche molti PM, semplicemente stanno un po' troppo sul piedistallo? Certo, perché io dico, noi nasciamo con la sindrome del peritus peritorum, quello che alla fine decide, alla fine ha ragione, ma non, se ho un merito è avere avuto, virgolette, l'umiltà di scendere dal piedistallo e di confrontarmi con delle persone che ne sapevano più di me su quello che io avrei dovuto fare. Mi sono appunto rivolto a dei consulenti consulenti, e per pagare i consulenti ho cercato di trovare dei fondi che ho trovato nel Fondo Sociale Europeo. Se non hai inventato, ha innovato. Noi abbiamo l'impostazione ancora di 20, 30, 40, 50 anni fa di quello che è un ufficio giudiziario. Un ufficio giudiziario oggi è qualcosa di un po' di diverso. Ma la giustizia è un servizio, non è un potere. Cioè è l'ottica che va cambiata. E secondo lei invece in questo momento in Italia prevale il potere rispetto al servizio da parte dei suoi colleghi? Io posso solo constatare che tendenzialmente gli uffici giudiziari non sono quello che dovrebbero essere. Dall'Olanda la voce del procuratore Tarfusser si gonfia di passione e di domande quando si interroga sul perché del suo esilio, per quanto prestigioso e dorato, e l'amarezza si mescola al rammarico al pensiero di certi suoi colleghi, di cui parla nella seconda parte di A ciascuno il suo, senza diplomazia. A ciascuno il suo. Aveva trasformato la procura di Bolzano in un laboratorio efficiente della giustizia, ma per alcuni suoi colleghi aveva agito solo da amministratore di condominio. Quando il suo modello di un ufficio capace di saltare la burocrazia inutile, di tagliare le spese superflue e di trovare anche fondi all'esterno fu preso in considerazione a Roma, i suoi colleghi lo accusarono di carrierismo e da allora sull'esperimento di Kuno Tarfusser cadde la damnatio memoriae, come commenta ora lui, chiaro e tondo, dall'Olanda, dove è uno dei 17 giudici della Corte Penale dell'Aia. Ma se l'attuale guardasigilli lo chiamasse, lui di sicuro ci penserebbe a rientrare in Italia. Lui che è l'onere della toga, saggio di Lionello Mancini per i caratteri della Rizzoli, l'ha sperimentato proprio in quel sangue amaro ribollito mentre lasciava l'Italia, nel disincanto con cui dall'Olanda ora guarda i suoi colleghi magistrati, da cui li separa, oltre che i chilometri, anche una frattura ormai insanabile. Questi consulenti a cui ho chiesto di darmi una mano, mi hanno proposto di implementare il cosiddetto bilancio di responsabilità sociale. Certo. Che è una fotografia dell'ufficio. Questo per me è stato una cosa che mi ha cambiato completamente la percezione di quello che stavo facendo. Anche rispetto, ad esempio, alle spese per le intercettazioni telefoniche? Per tutto, perché il magistrato normale non ha la percezione del fatto che l'attività sua, la giustizia, ha un costo. Tanto paga qualcun altro. A volte ci sono anche delle grandi inchieste che portano anche a cospicue confische, che quindi riportano nelle casse dello Stato anche, diciamo, molti milioni di euro. Io devo sapere ogni minuto, come qualsiasi azienda, cosa sto facendo, quanto sto costando, per poter intervenire in maniera correttiva o anche no. Questo è quello che ha reso Bolzano, tra il 2005 e il 2007 soprattutto, laboratorio per molti, è quello che invece aveva reso lei agli occhi anche di alcuni suoi detrattori come un amministratore di condominio, come pur... Ma me ne vanto, si è amministrato bene, poi me ne vanto. Ecco, procuratore, è già emerso da questa chiacchierata, lei stesso l'ha detto esplicitamente quando ha parlato del suo sangue amaro e quando ha parlato anche un po' dell'amarezza, dei rimpianti, insomma, con cui si trovi in una situazione di assoluto prestigio quale della Corte Penale dell'Aia, però del modo in cui è arrivato all'Aia e ha lasciato l'Italia. Tutto questo perché lei ha anche sentito in quella fase finale del suo impegno in Italia una crescente ostilità, oppure un po' una forma anche di invidia nei suoi confronti da parte dei suoi colleghi? Ma certo, ma sai, quando ti si dice ma questo lo puoi fare a Bolzano, mentre noi qui non lo puoi fare, non so, in altre città, diciamo, a criminalità più densa, io rispondevo sempre no, a maggior ragione, potrei anche non farlo a Bolzano, ma tu proprio lo devi fare per riuscire a combattere meglio la tua criminalità. Cioè qui una forte concentrazione di criminalità viene spesso presa come alibi per non fare, invece serve proprio il contrario, no? E poi un'altra cosa che mi ha fatto sempre salire il sangue al cervello è stato quando si diceva tu lo fai, puoi fare a Bolzano, perché a Bolzano c'è un profilo sociale, una certa pace sociale, eccetera eccetera. Sì, però adesso io, senza confrontarmi con grandi città a densità criminale forte, certo ci sono decine e decine di altre città città che sono assolutamente, anche sul profilo del consesso sociale, paragonabili a Bolzano. E ha trovato delle resistenze invece? No, ma sai, io poi a un certo punto non discuto, faccio il mio, io non sono più, faccio il mio e basta. Non, ecco, non procuratore, di cose che veramente non hanno senso, c'ho cose di meglio da fare. Al di là anche della sua esperienza personale, ma anche in altri casi, secondo lei in qualche modo una quota di responsabilità in questi meccanismi che si creano anche un po' di attrito nei confronti di alcuni magistrati che hanno, diciamo, che cambiano un po' le cose o che hanno una certa visibilità, diciamo, diversa rispetto agli altri, una responsabilità anche nelle forme di ostruzione che un po' si creano ai percorsi di alcune persone, ce l'hanno anche le correnti interne all'ANM? Certo, anche le correnti, però più delle correnti, che evidentemente io per esempio non sono mai stato iscritto a nessuna corrente, tanto per essere chiari, ma dal giorno 1 che sono entrato in magistratura fino ad oggi. Ma al di là delle correnti devo anche dire che ci sono molti magistrati, persone assolutamente serie, per bene, e amiche, che stanno facendo un lavoro, ottimo lavoro nell'ambito dei loro uffici, quindi esiste anche questa parte, non esiste solo sicuramente l'ostracismo, no? Non esiste solo l'ostracismo e il cercare di aggrapparsi allo status quo e ai propri privilegi, esiste anche l'altra parte, seppure per la mia percezione è assolutamente minoritaria. L'ultima cosa che le chiedo, procuratore, di raccontarci è quanto lei appunto racconta anche a conclusione del capitolo che lei ha dedicato nel saggio sull'onere della toga, uno scambio epistolare avuto con un suo amico collega, che è un po' la sintesi di tutto questo di cui stavamo parlando, cioè di come in qualche modo il suo rapporto rispetto al resto della sua categoria in Italia aveva subito una frattura molto forte dovuta anche al suo lavoro fatto a Bolzano. È stato accusato di fare di carrierismo e anzi è stato anche definito come un rompicoglioni, un termine che è utilizzato anche dall'ex ministro dell'interno per Marco Biagi. Per lei che cosa ha rappresentato sentire quanto i suoi colleghi dicevano di lei? Io posso solo dire che a un certo punto questa persona mi scrive un SMS in cui mi dice: fantastico, ti hanno affossato come organizzatore, non ti vogliono come relatore al congresso, uno schifo, hanno aggiunto che ormai sei fuori, un imboscato, brutta bestia l'invidia, cioè l'SMS che ho ricevuto. Devo dire che ci sono sempre due reazioni: uno, come diceva sempre mia madre, cosa gliene frega alla luna se il cane abbaia, da un lato, poi dall'altro lato però ovviamente mi è ribollito il sangue e ho scritto questa mail in cui in qualche modo mi sfogo contro questo ambiente fatto di invidia, di poco riconoscimento. Sa, quando poi uno è anche amareggiato, poi dico, evidentemente qui non, anche i magistrati, pur di mantenere, ovviamente non parlo di tutti, pur di mantenere un certo ruolo, anziché abbassarsi e cercare di confrontarsi con le necessità del cittadino, perché poi è lì che dobbiamo andare, senza dubbio, però non sembra questo la cosa maggiore o la cosa prioritaria, cercano di buttare fango, no? È la dannazio memoria, cioè questo viene condannato a non essere ricordato. Mi ha amareggiato da un lato, mi ha fatto incazzare dall'altro e ho detto vabbè, evidentemente va bene così, sono lontano, sono un privilegiato comunque, però sempre con questa punta di amarezza di non avere potuto, di non poter fare per il mio paese quello che potrebbe essere giusto fare. Ma se il ministro Cancellieri le offrisse un incarico, lei tornerebbe in Italia? Certamente andrei ad ascoltare, però sai, il problema è sempre questo: o si fanno le cose serie o se no non ne vale la pena, cioè tanto per fare non faccio nulla. Che ne pensate di questa fotografia di una parte della magistratura scattata da Cuno Tarfusser? Scriveteci su Facebook sulla pagina di Storiacce o su Twitter, l'account è Raf Calandra. Per riascoltare la puntata il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto.